in primo piano. Buongiorno, buon martedì da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore, anche perché oggi sono veramente l'unico quotidiano praticamente che si occupa di cose molto concrete, anche se altrettanto concreta naturalmente è la questione che riguarda Attilio Fontana, però siamo ancora in una fase preliminare delle indagini, c'è il solito botta e risposta, interpretazioni. Credo che forse la cosa migliore, ed è facile, abbastanza semplice farlo, è leggersi, perché c'è su internet, si può trovare facilmente il testo completo dell'intervento di 28 minuti di ieri di Attilio Fontana in consiglio regionale in Lombardia, e così poi uno può appunto leggere quelle parole e, oltre ai commenti che comunque vedremo, farsi una sua idea. Dicevo, perché questioni concrete? Perché l'apertura del Sole 24 Ore è questa: scuola, rischio, caos per settembre. C'è citata anche, tra l'altro, l'intervista che avete ascoltato qui a Radio 24 ieri a Emilio Salvatorelli, titolare di Vastarredo, un'azienda che si occupa di arredo scolastico, che ieri ha ribadito: manca l'acciaio per tutte quelle sedie. L'allarme era già stato lanciato settimana scorsa dalle due principali associazioni delle aziende che si occupano di arredo scolastico, dicendo che il numero di banchi inserito nel bando fatto dal commissario amministratore delegato di Invitalia, elenchiamo tutte le sue cariche: commissario straordinario per l'emergenza Covid e poi adesso commissario straordinario per la riapertura delle scuole, parliamo naturalmente di Domenico Arcuri, che ha iscritto, appunto ha lanciato questo bando settimana scorsa, un bando tra l'altro europeo per questa fornitura di milioni di banchi, che ha subito scatenato la reazione dei tecnici del settore, cioè quelli che poi i banchi li devono produrre. Ma sul Sole 24 Ore anche la proposta di riforma degli ammortizzatori sociali, che è stata presentata ieri al ministro del lavoro Nunzia Catalfo, dalle imprese. Le imprese, due punti: cassa ordinaria per tutti, politiche attive per chi perde il lavoro, cioè esattamente il contrario del reddito di cittadinanza o del sussidio di disoccupazione, che pure sono strumenti naturalmente utili, ma servono delle politiche attive, appunto, per trovare un'occupazione a chi l'ha persa o magari non l'ha mai avuta. In prima pagina anche un'analisi di Riccardo Barlam, che trovate poi a pagina 8, è un po' quello che si diceva anche ieri su Financial Times. Wall Street: le Big Five, cioè Apple, Amazon, Google, Facebook e Netflix, valgono più dei PIL di Francia e Italia. E ci lasciamo però subito un attimo per un aggiornamento sulla viabilità. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, buon martedì. La prima pagina del Sole 24 Ore, vi dicevo, temi molto concreti: c'è questo massimo storico, un nuovo massimo storico raggiunto dal dollaro, e l'euro è a 1,17 l'oro al massimo storico, euro a 1,17 sul dollaro. Anche qui record dopo record, questa crisi sta portando appunto questi dati, le quotazioni dell'oro, ma anche di altre materie prime, il valore dell'euro sul dollaro, ma anche, ricordiamo, tutte le oscillazioni del petrolio, sono sicuramente da tenere sotto controllo. E poi in prima pagina anche un aggiornamento sul risico bancario: le adesioni alla offerta pubblica di acquisto e scambio fatta da Intesa San Paolo su UBI sono arrivate a quota 43,48%, e l'offerta è stata prorogata per decisione della Consob, l'autorità di controllo sui mercati finanziari, al 30 di luglio. Vi segnalo anche, perché questo si lega naturalmente alla questione della burocrazia, abbiamo visto ieri il Sole 24 Ore che ricordava i 20 anni dello Statuto dei Contribuenti, un aggiornamento di Giorgio Santilli sulla questione degli appalti. È stato appena varato un decreto semplificazioni, l'obiettivo sarebbe appunto quello di semplificare per esempio l'iter degli appalti, e scopriamo che ci sono sulla questione degli appalti 500 provvedimenti accumulati in 26 anni. Vi dicevo, la questione della scuola, che riguarda così tante persone, che è sicuramente complessa, pagina 6, Andrea Gagliardi e Giovanna Mancini appunto tornano sulla questione dei banchi. Banchi e sicurezza, la scuola è a rischio caos. Assoufficio, un'altra associazione di settore, vogliamo un confronto. Le condizioni di gara, parlavamo dell'appalto, del bando di gara voluto da Domenico Arcuri, non sono accettabili. I produttori potrebbero disertare questo bando. Tra le criticità, le discusse postazioni a rotelle, avrebbero 6 rotelle, e rischiano di non essere a norma. Spunta la figura del medico di sorveglianza, un medico per ogni scuola, nel documento tra il Ministero della Ricerca e dell'Istruzione e i sindacati. Corriere della Sera, come altri quotidiani, si concentra sull'emergenza che si è di nuovo acuita, quella dei migranti. Migranti inviati militari, questa è una decisione del ministro dell'Interno Lamorgese, perché ci sono i centri di accoglienza che scoppiano con capienze previste di 100 che invece vengono alzate a 1000, per fare un esempio, quello di Lampedusa, ma situazioni analoghe in tutti i centri di accoglienza. Di Maio, questo è il sommario del Corriere della Sera, fughe inconcepibili, perché ci sono state anche le fughe appunto dai centri di accoglienza. Inconcepibile, no, sono concepibilissime, perché appunto ci sono state. Le reazioni di Di Maio, che tra l'altro come sapete non è mai stato ministro dell'Interno, quindi non è neanche più vice premier, quindi esattamente a che titolo parli, dovrebbe probabilmente concentrarsi, come sta cercando di fare Luciana Lamorgese, sull'arrivo da ministro degli esteri, appunto sui paesi dai quali arrivano i migranti. E Luciana Lamorgese per esempio ha detto: stiamo cercando di fermare i flussi dalla Tunisia. La foto è dedicata all'orso Papillon, che poi per quel meccanismo che assegna agli orsi un nome ma anche un codice, nel suo caso è naturalmente M49, questo orso di 4 anni, un orso maschio che è evaso per la seconda volta, evaso tra virgolette, naturalmente lui ha fatto l'orso, ha cercato la libertà che è nel suo istinto, la libertà nei boschi, ed è evaso appunto, era stato catturato ed è evaso dal centro faunistico del Casteller in Trentino. In prima pagina anche la questione del governatore Fontana, che ieri è intervenuto in aula. Il Corriere della Sera: Fontana in aula, 2 punti, la verità verrà a galla, non tollero dubbi sulla mia integrità. Ma di spalla subito c'è un intervento di Luigi Ferrarella, che è uno degli esperti anche di temi di giustizia, che scrive su questa questione fin dal primo giorno e racconta questo: l'ANAC multò il presidente, cioè l'autorità anticorruzione. Perché questa multa? E vi leggo le prime righe di questo articolo, che poi trovate a pagina 5. Sullo scudo fiscale, Attilio Fontana, come ieri in regione, ha sempre taciuto, tanto da essere sanzionato nel 2017 dall'ANAC per aver omesso nel 2016, da ex sindaco di Varese, l'obbligatorio stato patrimoniale nel quale sarebbero comparsi i 5 milioni di scudo fiscale in Svizzera nel 2005. Ricordiamo brevissimamente: eredità ricevuta da Attilio Fontana alla morte della madre 93enne, 5, qualcosa milioni di euro, su un trust alle Bahamas, quindi in un paradiso fiscale. L'attuale presidente della regione Lombardia ha poi usufruito della voluntary disclosure, che letteralmente significa: dico volontariamente che cosa possiedo all'estero illegalmente, questo conto alle Bahamas. I soldi sono rientrati dalle Bahamas, ma sono su un conto in Svizzera, quindi non sono mai rientrati in Italia, sono stati, tra virgolette, con questo termine, questo neologismo orribile secondo me, scudati, quindi è stata pagata una tassa, ma ripeto, non sono mai rientrati in Italia. Dalle Bahamas si sono spostati in Svizzera, dal conto in Svizzera. Fontana ha cercato di fare questo bonifico, che non è mai andato a buon fine, a favore del cognato. Vi segnalo dal Corriere della Sera anche un'intervista a Carlo Bonomi, che naturalmente è, come sapete, presidente di Confindustria, e lo dico sempre, Confindustria è l'azionista di maggioranza del gruppo Sole 24 Ore, che controlla anche Radio 24. E l'intervista è a Rita Querzé. Rita Querzé ieri insieme a Milena Gabanelli era l'autrice del consueto approfondimento Data Room, consueto nel senso che esce ogni lunedì sul Corriere della Sera, e ieri ci si concentrava sulla burocrazia e anche sulla necessità di tagliarla da inserire nel piano per ottenere i soldi del Recovery Fund dall'Unione Europea, da inserire nel senso misure pratiche per tagliare appunto la burocrazia, una cosa di cui si parla da decenni in Italia. E il presidente di Carlo Bonomi in questa intervista a Rita Querzé parla anche di questo. Il titolo scelto tra virgolette è: il governo è fermo alla fase 1, subito una riforma del lavoro. E naturalmente questo si lega al titolo che abbiamo visto sul Sole 24 Ore, la proposta di riforma degli ammortizzatori sociali fatta ieri al ministro Catalfo dalle imprese. Il presidente di Confindustria: si vara uno scostamento da 25 miliardi per continuare a distribuire risorse a pioggia. E di nuovo torniamo sul tema della necessità di politiche attive. Rita Querzé: ha senso in questa crisi parlare di politiche attive del lavoro se il lavoro non c'è? E Bonomi risponde: certo che ha senso, vogliamo fare di tutto per creare il lavoro, e comunque è assurdo che per quello che c'è non si trovino le persone giuste, il cosiddetto mismatch, cioè la mancanza di dell'incontro tra domanda di certe professionalità e offerta di lavoro. Dobbiamo mettere in campo una riforma delle politiche attive che offra a tutti i disoccupati l'assegno di ricollocazione e non solo a chi ha il reddito di cittadinanza. Abbiamo proposto di mettere in campo in questa direzione i fondi interprofessionali. E poi l'ANPAL, naturalmente quell'associazione delle politiche per il lavoro pubblica, deve collaborare con le agenzie del lavoro private. Con il Corriere della Sera, come ogni martedì, ne dico la buona notizia, che poi in realtà avvisa anche in prima pagina che questo è il primo numero, è l'ultimo numero, poi c'è una pausa estiva e si torna in edicola il 1° settembre. La copertina è dedicata a Marco Salvi, e Paolo Foschini a pagina 2-3 ci racconta poi chi è Marco Salvi, che appartiene alla famiglia Salvi, quarta generazione di imprenditori dell'agricoltura. E le salvatrici della frutta nel villaggio Covid Free, questo è il titolo, perché c'è appunto in questi campi della famiglia Salvi, per esempio dove si coltiva soprattutto frutta e in particolare fragole. Le case costruite per le 500 dipendenti straniere, soprattutto polacche e romene, molte in marzo erano rientrate nei loro paesi per il timore di restarne fuori, sono tornate. Il nostro lavoro è questo, i titolari Marco e Silvia: con gli italiani non ce l'avremmo fatta. E questo naturalmente della mancata offerta di lavoro per i campi, e quindi la necessità di avere lavoratori stranieri in questo caso, e da qui l'inserimento della storia nel supplemento Buone Notizie, tutti in regola, anzi appunto con questo aiuto, la costruzione di un villaggio e l'aiuto nell'emergenza per o tornare nei paesi o poi dei paesi d'origine e poi ritornare in Italia, quindi si può fare anche in modo regolare. Però anche nell'agricoltura c'è un problema di mismatch, cioè in agricoltura, che è comunque una parte importante dell'economia del nostro paese, c'è richiesta di manodopera, ma non ci sono persone che vogliono lavorare in questo campo. La Repubblica, migranti, quindi l'apertura, il titolo principale simile a quello del Corriere: così Italia e Malta li abbandonano ai libici. Simili, nel senso il tema è lo stesso, ma il punto di vista naturalmente in questo caso è appunto focalizzato sui paesi dai quali arrivano i migranti e poi la sorte che seguono una volta cercato di attraversare e raggiungere l'Italia, e i respingimenti per esempio da parte di Malta, e quindi spesso il ritorno di questi barconi verso la Libia. La Morgese manda l'esercito nei centri d'accoglienza in Sicilia. Poi c'è un accenno con un'intervista che leggeremo dopo di Francesco Bei a Attilio Fontana. Vado avanti, i miei non evadevano, miei nel senso i miei genitori. E poi però la fotonotizia è un murales, uno dei tanti murales apparso in questo caso è a Milano, ma ce ne sono in tutta Italia, in tutto il mondo in realtà, per rendere omaggio a tutte le persone, gli sanitari, quindi non soltanto medici ma anche infermieri e tutte le persone che per esempio hanno lavorato alla pulizia delle strutture sanitarie, che sono stati in prima linea durante l'emergenza Covid. Francesco Merlo, pagina 10 e 11, viaggio nell'anarchia della mascherina. Lo spunto naturalmente è dato dal convegno che c'è stato ieri in Senato, un convegno di 5 ore, per tutte queste 5 ore in un'aula chiusa, in un luogo, il Senato, dove è previsto l'obbligo di mascherina, Matteo Salvini, leader della Lega, si è presentato senza mascherina, ha rifiutato quella che gli veniva offerta da un suo collaboratore e ha detto anche di rifiutare appunto la dittatura della mascherina. Noi ci lasciamo un attimo e sentiremo anche un aggiornamento sul meteo. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e grazie agli ascoltatori che stanno agli ascoltatori innanzitutto per l'ascolto e poi anche a chi sta mandando messaggi al 349-238-6666, WhatsApp o SMS. Lo dico ancora una volta perché anche oggi c'è chi dice perché non parlate, anzi mi dice che sono una vergogna perché io non parlo delle ruberie della sinistra ma solo di Fontana. Questa è una rassegna stampa, i titoli in prima pagina dei giornali parlano della questione Fontana che è attualissima perché l'intervento del governatore è stato in regione meno di 24 ore fa. Abbiamo parlato sicuramente in passato delle ruberie della sinistra, non sono, ripeto, qui a fare la memoria storica delle ruberie della politica italiana, perché purtroppo non dovremmo chiamarla rassegna stampa, ma in un altro modo. Comunque, se nei prossimi giorni verranno fuori altri fatti di cronaca che conquisteranno le prime pagine dei giornali, che riguardano quella che per l'ascoltatore è la sinistra e non so esattamente che cosa intenda, sicuramente ne leggeremo quei titoli. Eravamo alla Repubblica che come ogni martedì ha in allegato ha il supplemento motore, tendenze, lifestyle e modelli e vi segnalo, ieri abbiamo letto parte dell'articolo di Massimo Gaggi che riprendeva un articolo di Maureen Dowd sul New York Times, un ritratto intervista di Elon Musk, fondatore di Tesla. Oggi naturalmente Elon Musk fa notizia perché Tesla settimana scorsa ha pubblicato per il terzo trimestre di fila una trimestrale inutile, quindi anche qui Francesco Paternò su Repubblica racconta il personaggio Elon Musk dalla Tesla a Marte, ritratto di un inguaribile visionario, e come avrete capito è un personaggio che mi affascina molto. La stampa, l'esercito per fermare i migranti, quindi stessa scelta di Corriere Repubblica, anche in questo caso come il Corriere c'è la foto dell'orso M49 o anche poi ribattizzato Papillon che è di nuovo scappato. Qui l'intervento è di Mauro Corona, lo conoscete insomma, scrittore ma poi anche montanaro nel senso che vive in montagna ed e ama tantissimo le sue montagne e di questo parla spesso anche nei suoi romanzi e nei suoi saggi. L'orso M49 ha 4 anni, l'abbiamo detto, è nato nel 2016, pesa 170 kg e quindi con questo peso e la forza che gli viene dall'essere orso ha divelto il recinto in cui era stato chiuso ed è di nuovo scappato. In prima pagina anche l'inchiesta su Fontana attacca ma i PM seguono la pista svizzera e poi dicevamo quello che la stampa definisce, naturalmente non si definiva così anche perché c'erano anche degli scienziati controversi come il virologo Sarro, ma c'era anche Zangrillo che è invece primario di anestesiologia qui al San Raffaele di Milano che sapete da mesi, da maggio ormai, spiega che clinicamente, questa è la sua definizione, il virus è praticamente morto, quindi c'erano scienziati di ogni genere ma c'era anche Matteo Salvini come abbiamo detto e Andrea Bocelli che si è sentito, ha detto penalizzato molto dal lockdown. Ricordiamo che Andrea Bocelli durante il lockdown di Milano ha cantato da solo in Duomo, non è sembrato particolarmente sofferente in quell'occasione, anzi credo che sicuramente per un cantante avere l'opportunità, tanto che ha messo tutto sul suo canale YouTube ed è stato anche molto visto in tutto il mondo da milioni e milioni e milioni di persone, sicuramente per un cantante cantare in Piazza del Duomo vuota, avere l'onore di farlo, non deve essere stato così terribile per il semplice fatto che poi abbia accettato, però in questo convegno ha detto che si è sentito appunto penalizzato dal lockdown. Vi segnalo il buongiorno di Mattia Feltri, ve lo leggo perché riassume la vicenda Fontana. All'inizio ho detto è molto difficile, oggi ci vorrebbero, e non credo che nessuno sarebbe disposto a seguirla, ci vorrebbero ore per fare una rassegna stampa, nel senso di leggere oltre ai titoli anche gli articoli interessanti, ci vuole molta sintesi, sicuramente una delle doti di Mattia Feltri, e quindi vi leggo il suo buongiorno. Riassunto. La Regione Lombardia, presieduta da Attilio Fontana, chiede all'azienda del cognato e della moglie del medesimo Fontana una fornitura di qualche decina di migliaia di camici al prezzo di oltre mezzo milione di euro. Qui faccio una piccola precisazione perché in un riassunto alcuni dettagli sfuggono. L'azienda di cui si parla è la Dama di Varese, che possiede il marchio Pollen Shark. Il 90% di questa azienda è di Andrea Dini e della famiglia Dini. Andrea Dini ha sposato la sorella di Fontana, da cui appunto la definizione cognato, che possiede il restante 10% di questa azienda. Fontana viene a saperlo da un suo assessore, ma nulla fa finché non cominciano a occuparsene i giornalisti di Report. Allora chiama il cognato, lo convince a trasformare la commessa in donazione e a parziale risarcimento prova a bonificargli 250.000 euro da un conto svizzero su cui sono depositati più di 5 milioni. I risparmi della madre arrivati dalle Bahamas con lo scudo fiscale, traduzione, ripuliti legalmente e tenuti all'estero, come abbiamo detto prima. I presupposti del bonifico sono così bizzarri, ieri abbiamo letto dal Messaggero tutte le ragioni per le quali questo bonifico è stato segnalato dalle autorità competenti, che viene bloccato, si avvisa Banca Italia e parte l'inchiesta. Ricordo che stiamo parlando del presidente della Lombardia, non di Checco Zalone, per cui sì, non ha torto Matteo Salvini quando dice che non si era mai visto un politico indagato per aver sborsato dei soldi anziché intascarli. Sono le nuove frontiere della nuova leadership, a cui si arrende pure Jacopo Pensa, l'avvocato di Fontana, al quale rimane di appellarsi, spendendo parole più eleganti, all'incapacità di intendere e di volere. Nessun criminale sarebbe talmente balordo, ecco la miglior prova della buona fede. Probabilmente è un'ottima strategia processuale e persino politica in questo svalvolato paese dove proliferano partiti onesti guidati da persone integerrime capaci delle più intergalattiche minchionerie, però in buona fede. Comunque la presunzione di innocenza non si nega a nessuno, quella di scemenza si concede a chi la vuole. Il Messaggero ha un titolo molto forte, non sui migranti ma sull'inchiesta su Fontana, ed è questo. Tra virgolette, perché è attribuito da un collaboratore, a un collaboratore di Fontana. Fontana mente, ora dimissioni. Il governatore si difende in consiglio comunale, non sapevo nulla, ma il suo staff lo smentisce. L'ipotesi dei PM, appalto sui camici, pilotato per favorire il cognato. PD e Movimento 5 Stelle, ora vada via. La foto in questo caso riguarda Roma, perché ieri un pino si è caduto su un'auto in Piazza Venezia e il titolo è «Piovono alberi al centro di Roma, donna si salva, dramma sfiorato». In prima pagina anche il tema della discussione che si sta avviando su come strutturare questo piano che deve essere presentato all'Unione Europea per poter avere i soldi del Recovery Fund. Sud, meno tasse per ripartire, il governo in pressing sull'Unione Europea, e c'è un'intervista al vice ministro del Tesoro Laura Castelli, e il titolo dato a questa intervista, che poi trovate a pagina 5 del Messaggero, una fiscalità di vantaggio con le risorse in arrivo da Bruxelles. Su Laura Castelli, e così penso di fare anche un favore all'ascoltatore che mi invita a ricordare fatti e dati del passato, Laura Castelli nel novembre del 2018, parlando in televisione con Piercarlo Padoan di Spread, rispose a Piercarlo Padoan, che stava cercando di spiegare perché lo spread è un indicatore importante, gli rispose: questo lo dice lei. Quindi questa è Laura Castelli che adesso appunto invoca, lei è torinese di nascita, invoca questa fiscalità di vantaggio per il sud d'Italia. Il Messaggero dedica le prime due pagine, quindi il titolo di apertura e poi pagina 2 e 3 alla questione di Fontana, e anche oggi con questi numeri, queste date, perché la linea temporale è importante per cercare di capire chi mente e chi no, Attilio la figuraccia lombarda e le dimissioni da dare subito, questa è l'opinione del Messaggero, che anche oggi dà spazio a Stefano Buffagni del Movimento 5 Stelle, che ripete le cose che ha già detto ieri ai giornali: ha mentito, ora deve lasciare, l'offensiva di Grillini e PD, pronta la mozione di sfiducia. Il Fatto Quotidiano, un fotomontaggio in prima pagina, c'è Fontana che corre con una valigetta in mano, la mascherina, sullo sfondo UBS, che è il colosso svizzero dove ha il conto Fontana. Su Fontana, seconda indagine in Svizzera, e alla questione il Fatto Quotidiano dedica due pagine, con anche un approfondimento su Patrizia Baffi, ex membro del Partito Democratico, ora di Italia Viva, che fa parte del Consiglio regionale della Lombardia, e comunque è tutta una vicenda che, per quanto riguarda la discussione in regione, verrà rinviata a settembre. Ma il tema è che Patrizia Baffi è contraria alle dimissioni, ha dichiarato che non voterà per un'eventuale mozione che chieda le dimissioni. Patrizia Baffi è una, abbiamo detto appunto, appartiene a Italia Viva, quindi viene definita dal Fatto Quotidiano giustamente renziana. Italia Viva è il partito fondato da Matteo Renzi. È una figura abbastanza controversa, e lo ricorda il Fatto Quotidiano, perché Patrizia Baffi, già eletta coi voti della Lega a capo della commissione d'inchiesta regionale sul Covid e poi costretta alle dimissioni proprio perché eletta con i voti della Lega, a metà mattina ha consegnato alle agenzie un comunicato che sembra scritto, scrive il Fatto Quotidiano, dal team legale di Fontana. E trovate questo profilo, appunto questo racconto delle posizioni di Patrizia Baffi, a pagina 3 del Fatto Quotidiano. L'apertura di Avvenire è ancora diversa, economia sommersa. A questo proposito vi segnalo che della questione anche dell'usura e di come la criminalità organizzata si sta approfittando dell'emergenza economica e sociale che è venuta dopo l'emergenza sanitaria da pandemia, si occuperà Laura Bettini in Ma cos'è quest'estate, dopo il GR delle 8. È il titolo dell'Avvenire. La pandemia sociale a Palermo ha colpito l'intero settore informale e in nero. I contagi sono in calo, per la riapertura delle scuole ancora problemi e incognite, per tornare appunto a inquadrare comunque questo tema dell'economia sommersa nella più generale emergenza sociale da pandemia, che appunto, come vedevamo anche dal titolo del Sole 24 Ore, riguarda anche la scuola. In prima pagina anche un'altra notizia importante arrivata ieri, che è quella dell'assoluzione della Corte d'Assise di Massa Carrara di Mina Welby e Marco Cappato, rispettivamente co-presidente e tesoriere dell'associazione radicale Luca Coscioni, che hanno appunto sono stati assolti dall'accusa per aver accompagnato in Svizzera una persona che aveva chiesto l'eutanasia o suicidio assistito, che in Italia non è legale, e ricordiamo ancora una volta che c'è una legge in discussione in Parlamento, ma ripeto, è in discussione, non è mai stata approvata né dalla precedente legislatura né da questa, anzi da questa non è di fatto nemmeno stata discussa. Il Manifesto, nato con il camice, naturalmente Attilio Fontana, e poi in prima pagina anche la questione dell'immigrazione: Tunisi promette lo stop alle partenze. Ultimo titolo prima della seconda pausa di aggiornamento sulla viabilità: Libero, paradosso all'italiana, Fontana accusato perché è ricco. L'articolo principale di Vittorio Feltri, che poi inizia in prima pagina, prosegue a pagina 2, invidia sociale se il dio soldo ti condanna a essere disprezzato. Ci lasciamo un attimo, ripeto, per la viabilità. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie per tutti i messaggi. Agli ascoltatori sono molti messaggi positivi e insomma i complimenti fanno sempre piacere. Mi concentro a volte e so che alcuni non sono d'accordo con questa scelta, su quelli negativi, perché se le critiche sono costruttive sono secondo me sempre molto utili. E passiamo quindi alla verità, ci mancano ancora tre prime pagine, poi torniamo al Sole 24 Ore sulle pagine interne e sugli altri quotidiani. La verità: clandestini, altre fughe di massa e i porti ora li bloccano i siciliani, centinaia di migranti se la svignano dai centri dove dovrebbero fare la quarantena. Il commento è del fondatore e direttore della Verità Maurizio Belpietro. Su Fontana indagano un politico che voleva pagare e non rubare. E poi in prima pagina anche la notizia che abbiamo visto anche sull'Avvenire in prima pagina, ma anche su altri giornali: assolto Cappato, sdoganata l'eutanasia. Il Giornale: sbarcano in Italia controlli e barboncino. Il titolo è riferito a una fotografia scattata ieri da una donna tunisina sbarcata in Sicilia con il suo cane, un barboncino. Il Giornale, direi forse l'unico quotidiano che torna a parlare in prima pagina, all'interno ne parlano anche altri, dell'inchiesta sulla caserma di Piacenza. Luca Fazzo ha una notizia che gli altri giornali non hanno: dalla caserma di Piacenza spariti 2 milioni di dollari. L'inchiesta sui militari si allarga. Il Foglio ha innanzitutto ospita un lungo intervento molto interessante, tutto da leggere, è una pagina intera, di Giorgia Meloni, che è, come sapete, presidente di Fratelli d'Italia, che spiega in una lettera al direttore del Foglio, Claudio Cerasa, lavoro, fisco, imprese, aiuto alle persone in difficoltà, i quattro paletti di Fratelli d'Italia per un accordo con il governo, in vista naturalmente, come ho detto più volte, io credo che sia doveroso che il governo e la maggioranza che lo sostiene trovi il modo, che sia una commissione bicamerale, che sia una discussione in Parlamento, di coinvolgere l'opposizione, perché solo il Parlamento o le commissioni bicamerali rappresentano tutte le forze politiche, trovi il modo di coinvolgerla nel, appunto, mettere a punto questa proposta per avere i miliardi del Recovery Fund. Molto interessante, perché su questo tema Sabino Cassese, costituzionalista, sono decenni che scrive, direi inascoltato, ed è appunto la riforma della burocrazia. Il titolo dell'intervento di Sabino Cassese è «I magistrati e poi il caso di Piacenza, buone ragioni per pretendere una minore tolleranza delle deviazioni». E il titolo dell'intervento è «Fiducia nello Stato?», punto interrogativo però. Torniamo, dicevo, al Sole 24 Ore, alle pagine interne. L'approfondimento sull'oro ve l'ho citato, lo trovate a pagina 8, anche quello sulle Big Five di Wall Street, cioè la holding che controlla Google, Alphabet, Netflix, Apple, Amazon e Facebook, che insieme valgono 5 miliardi di capitalizzazione. Molto interessante l'approfondimento di Barbara Gantz a pagina 13 del Sole 24 Ore di oggi, un'intervista a Ivano Vacondio, che è presidente di Federalimentare, che dice: il made in Italy alimentare batte il virus ma rischia sui dazi, perché alcuni paesi, tra i quali gli Stati Uniti, stanno pensando appunto a nuovi dazi sui prodotti alimentari italiani. Gli aggiornamenti sull'OPAS di Intesa su Ubi li trovate a pagina 17, e con l'intervento della Consob che ha dato 2 giorni in più per l'offerta. Ma vi segnalo, perché trovo veramente interessantissimo, innanzitutto un aggiornamento sulla questione Atlantia Autostrade. Atlantia al lavoro sulla proposta di Cassa Depositi e Prestiti, ma resta l'ostacolo del prezzo. E poi la sezione Salute, che è in edicola, che c'è ogni martedì con il Sole 24 Ore. Questo è veramente, come dico, parlare di numeri, parlare di fatti. Sappiamo che se il MES venisse, se l'Italia decidesse di utilizzare il MES, ci sarebbe un unico vincolo importante, che è quello di utilizzare questi miliardi per l'emergenza sanitaria, intesa in come naturalmente soldi per il sistema sanitario, ma anche per tutte le conseguenze sanitarie che l'emergenza che la pandemia ha portato, quindi anche la questione scuola. E quindi due pagine oggi di salute a cura di Marzio Bartoloni e Francesca Cerati, occasione MES, 32 miliardi per mettere in sicurezza il Servizio Sanitario Nazionale. Mentre il governo si divide sull'opportunità di ricorrere al salva stati, ecco i 10 possibili interventi su cui investire le risorse per rafforzare il servizio sanitario. Pagine 28 e 29 del Sole 24 Ore di oggi. L'approfondimento sul convegno che c'è stato ieri in Senato, pagina 11 del Corriere della Sera: il virus non c'è più, Salvini al convegno senza la mascherina, e Andrea Bocelli che dice ho disobbedito. Dalla pagina 15 del Corriere della Sera, Viviana Mazza ci ricorda la scomparsa di Padre Dell'Oglio, e con un intervento al fratello Paolo Dall'Oglio che ricorda appunto il fratello rapito 7 anni fa, e ora lo spunto è un film che parla di questa vicenda, ma anche un docufilm che mercoledì 29 luglio alle 21:30 nella sala virtuale del cinema La Compagnia va in onda questo documentario che si chiama Ayuni di Yasmin Fedda. Si ricorda in questo documentario che Padre Dall'Oglio è uno dei 100.000 desaparecidos in Siria. In questa pagina c'è anche l'occasione, è solo un trafiletto però è importante, noi ne abbiamo parlato a Effetto Mondo una decina di giorni fa, l'addio che c'è stato ieri a John Lewis, morto a 80 anni, era un'icona dei diritti civili americani, nonché parlamentare del Congresso americano per tantissimi anni. È morto il 17 luglio e ieri c'è stato trasmesso in diretta da moltissimi network americani il suo funerale. A pagina 23 trovate la cronaca sulla fuga dell'orso, barriere elettriche grate non bastano, la nuova evasione dell'orso Papillon. Questo lo segnalo perché qualche giorno fa ho pronunciato più volte male il nome di Banksy, dicendo appunto Banksy, invece l'artista è Banksy, e il Corriere della Sera segnala questa notizia in breve, che a Londra va all'asta un trittico di Banksy, il ricavato sarà in beneficenza. L'intervista che vi dicevo a Attilio Fontana la trovate a pagina 7 della Repubblica di Francesco Bei, e sulla questione dei 5,3 milioni e sul fatto che l'ANAC avesse segnalato che Fontana non aveva parlato di questo conto alle Bahamas e poi della voluntary disclosure, quando già però non era più sindaco di Varese, Francesco Bei chiede: perché si viene a sapere solo oggi che lei ha usufruito della voluntary disclosure per una cifra così alta? Non era meglio dirlo prima di candidarsi, o pensava non fosse rilevante? Fontana risponde: si sbaglia, quel conto non solo è perfettamente legale, è frutto del lavoro dei miei genitori, ma è dichiarato pubblico e trasparente, riportato nella mia dichiarazione patrimoniale pubblicata sin dal primo giorno. E Bei gli chiede: sua madre faceva la dentista, erano soldi frutto di evasione fiscale? E Fontana risponde: ma che dice, i miei hanno sempre pagato tutte le tasse, mio papà era dipendente della mutua, il padre era un pediatra, mia madre era una super fifona, testuale, figurarsi evadere, non so davvero dirle perché portassero fuori i loro risparmi, comunque era un conto non operativo da decine di anni, penso almeno dalla metà degli anni 80. Pagina 7 della Repubblica. Nella pagina successiva, pagina 8, c'è invece un'altra intervista di Arianna Di Cori all'ex fidanzato di Rocco Casalino Alvarez. Delle molte domande mi ha colpito questa. Casalino non l'ha mai aiutata economicamente in 6 anni. La vicenda è questo José Alvarez, appunto l'ex fidanzato di Casalino, Rocco Casalino, portavoce del premier Giuseppe Conte, che ha perso durante il lockdown 18.000 euro improvvisandosi trader online. Dice di averli persi soprattutto per aver scommesso erroneamente sul petrolio, facendosi dare dei consigli da chi gestiva il portale di trading che utilizzava. E la domanda che mi ha colpito è questa: Casalino non l'ha mai aiutata economicamente in 6 anni? In questo periodo è stato lui a mandarmi il denaro da inviare alla mamma a Cuba. E in passato, se ero in difficoltà, non si è mai tirato indietro. Gli chiedevo soldi a periodi, magari quando mi facevano le multe con il motorino. Lui mi ha sempre detto: poche centinaia di euro non mi cambiano la vita. E ci credo, perché sono andata, per darvi la cifra precisa, a guardare quanto Rocco Casalino guadagna. Rocco Casalino si è saputo nel settembre 2018, quindi ai tempi del primo governo, quello con la Lega. Rocco Casalino guadagna 169.000 euro lordi all'anno, quindi circa 7.000 euro netti al mese. Ci credo che poche centinaia di euro non fanno differenza. Questa è una vicenda che aveva destato all'epoca, poi come spesso succede in Italia tutto viene dimenticato, per molta molta discussione all'epoca, appunto. Purtroppo, perdendomi in queste interviste, ma avevo messo da parte tantissime altre cose, ma andate in edicola, comprate i giornali, le troverete anche voi. Siamo arrivati alle 7:57, grazie a Peter Bescapè in regia, grazie a tutti voi per l'ascolto, ancora un buon martedì da Giulia Crivelli.